Linee d'ombra di Matteo Caccia. Devo farmi venire un'idea, e questa mi sembra una sfiga, deve essere una sfida. Mi gioco tutto, quanti soldi ho? Pochissimi, vediamo cosa riesco a fare. Cercavo lavoro ovunque e avevo contattato tutti. Agenzie pubblicitarie, case di produzioni, riviste, musei, studi di grafica. Tutti, veramente tutti. Intanto il tempo passava e i soldi finivano. Storie di fotocopie e di falsari in una puntata che si intitola Produrre la documentazione. C'è bisogno che tira perché non è che scappa. Intanto hai allungato il passo, eh? Ho allungato il passo perché c'ho la gamba più lunga. Sì, la gamba più lunga. Ma mi faccio vedere il biglietto, se ce l'ha. Ce l'ho, se non ce l'ho l'ho perso. Se l'ha perso e farò la contravvenzione, va bene? No, anche io le farò, perché metto le mani avanti. No, ho detto se non ce l'ha le farò futuro la contravvenzione. Se lo troverò si rimangerà anteriore. Senta, tiri fuori sto biglietto, se ce l'ha, se no le faccio la contravvenzione. Ce l'ho, se non ce l'ho l'ho preso. Andiamo avanti una vita, eh? Vuole una sigaretta? No, grazie. Guardi che non è mica per corrompere. Ci mancherebbe che vuole corrompermi con una sigaretta. Vuole il pacchetto? Senta, non faccia lo spiritoso, mi faccia vedere sto biglietto, se ce l'ha e la chiudiamo lì, va bene? Ce l'ho, se non ce l'ho l'ho perso, perché c'erano anche i testimoni che hanno testimoni visto che il biglietto cosa? L'ho fatto. Quando ero lì sulla salvagente, dove... Sì, passa il piroscafo, cioè, sì, la pensilina si chiama. La pensilina, esatto. Che è passato il tram e io intanto ero ultimo, allora mi sono messo a correre, avevo in mano il biglietto e l'ho sventolato inavvertitamente. Una bandiera, non è un biglietto. Tanto che un ragazzo ha affacciato al finestrino e ha detto guarda quello lì, c'è il biglietto. Durante quest'estate in cui è andato in onda qui su Radio 24 il meglio di Linee d'ombra, è andato in onda alle 16 invece che alle 15, ora siamo ritornati con la programmazione regolare, quindi siamo tornati rigorosamente dal lunedì al venerdì alle 15, vi dicevo, è andato in onda un promo, cioè un lancio di una piccola novità di Linee d'ombra, di questa nuova stagione di Linee d'ombra, ed era appunto il lancio del numero WhatsApp di Linee d'ombra, un numero dedicato che è il 331 57 55721. Ve lo ripeto e poi vi dico a cosa serve. 331 57 55 721, è proprio un numero dedicato a Linee d'ombra per mandare dei messaggi audio WhatsApp, quindi no telefonate, no testi scritti. Perché? Perché a questo numero vi chiediamo di mandarci delle storie legate a dei confini, a delle linee d'ombra che state attraversando in questo momento. E appunto è andato in onda un promo, cioè è andato in onda una sorta di piccolo spot con la mia voce in cui dicevo che c'era questo nuovo numero, potevate mandarci queste storie in più di un'occasione, via mail, via messaggio e addirittura anche durante un incontro mentre mi trovavo in Friuli quest'estate. Una sera ho incontrato una persona che mi ha riconosciuto, abbiamo chiacchierato e ho capito che c'era stato un fraintendimento, cioè ho capito che molti ascoltatori, tra cui ad esempio questa persona, avevano capito che il programma sarebbe stato solo di messaggi audio con la voce dei voi ascoltatori, e tutti dicevano ma come, ma scusa, ma il bello del programma è che tu leggi le storie, le racconti, eccetera eccetera. Ecco, ripeto, è stato un fraintendimento, perché il cuore del programma rimane quello, rimangono le vostre storie che mi mandate per iscritto a lineedombra@radio24.it, che poi io, Mauro Pescio, Anita Panizza, Luca Micheli e Paolo Corleoni lavoriamo in vari modi, chi mettendoci mano, chi mettendoci la musica, ma semplicemente c'è un pezzo in più che partirà nei prossimi giorni e che vi chiedo davvero di rimpinguare con la vostra voce, e cioè se state in questo momento preciso, cioè non se in passato avete vissuto una linea d'ombra, se l'avete varcata o se avete passato un confine ieri, l'altro ieri o 5 o 50 anni fa, ma se ci siete in mezzo adesso, se siete nel mezzo di una storia che sta finendo, se siete nel mezzo di un trasloco, di un lavoro chiuso e non sapete cosa succederà, se state cambiando appunto mestiere, se state cambiando città, se state cambiando casa, cioè se quella linea la state attraversando in questo momento, ecco, in quel caso non vi chiediamo di scriverla, perché è ancora troppo attaccata alla vita quel pezzo di realtà. Vi chiediamo però di raccontarcela attraverso un vostro messaggio vocale, attraverso un messaggio vocale che duri un paio di minuti, ecco, non di più. Ce ne sono arrivati alcuni di 10. È complicato mettere le mani in un messaggio vocale di 10 minuti, però un paio di minuti sì, va bene. Ci raccontate qual è la linea d'ombra che state attraversando al 331 57 55 721, e questo non sostituisce ma si aggiunge alle storie che noi continuiamo a raccontare. Questo, ecco, semplicemente una piccola spiega, perché ho capito che evidentemente mi ero spiegato male io, ci eravamo spiegati male noi. E ora ricontinuiamo a raccontare, è la seconda puntata di questa seconda stagione di Linee d'Ombra. L'indirizzo per mandarci le vostre storie è sempre quello, cioè lineedombra@radio24.it. oggi, in questa puntata che si intitola Produrre la documentazione, dopo questo splendido intro di Aldo, Giovanni e Giacomo con Ayeye Brazov, che è stato insomma uno dei cult di questo trio, visto che gli si chiedeva di mostrare o il biglietto o la carta d'identità, questa puntata si intitola Produrre la documentazione, perché partiamo da una giovane neodiplomata che fa l'illustratrice e che deve produrre la sua documentazione, cioè le sue illustrazioni, i suoi disegni, per trovare un lavoro. E questa è la storia. Benvenuti a Linee d'Ombra. Avevo appena finito il mio Master in Communication Design alla Central St. Martins di Londra, con specializzazione in illustrazione. Era il 2003, non avevo un lavoro e non avevo un soldo. Passata l'euforia della fine del corso, i vari festeggiamenti al pub, le ultime feste con i colleghi di corso che a breve avrebbero lasciato Londra, mi sono ritrovata con un conto quasi in rosso in una delle città più care al mondo. Cercavo lavoro ovunque e avevo contattato tutti. Agenzie pubblicitarie, case di produzioni, riviste, musei, studi di grafica, tutti, veramente tutti. Una lettera di presentazione, il mio curriculum e un paio di esempi di stile in allegato all'email. Invia e aspetta risposta. Aspettavo, aspettavo e aspettavo. Qualcuno mi dovrà rispondere. Dai, su, rispondete, pensavo. Passavano le ore e sembravano giorni. I giorni sembravano mesi. Il tempo passava e i soldi finivano. Finché arriva un'email. È arrivata un'email, penso. La apro e poi mi allontano di corsa. Se è lunga, penso ci sarà scritto qualcosa di importante. Se è breve, sarà un no grazie, immagino. No, non è né lunga né breve. E mi avvicino per leggerla. Mi chiedevano la disponibilità per un incontro il giorno dopo, fantastico, e mi chiedevano di portare il mio portfolio. Oddio, penso. Il portfolio all'epoca era un librone A3 rilegato in pelle, con pagine estraibili stampate in alta risoluzione, con una buona stampante su carta di qualità. Il tutto dentro ad una bella cartella. Carissimo, al punto che io ancora non l'avevo preparato. Vabbè, oggi è molto più facile perché diciamo che tutti usano un conto Instagram, quindi è molto più facile caricare le immagini, però all'epoca per tutti gli illustratori, grafici, fotografi dovevano avere un portfolio stampato, che era una spesa incredibile per un artista che stava iniziando la sua carriera. Mi faccio un breve calcolo. Ho circa 300 sterline sul conto. Aggiungendo le monetine disperse per casa e dentro le tasche posso arrivare a 320. La carta per la stampa mi costerà almeno 30 sterline, la stampante 200, la cartella 80. Mi rimangono 20 sterline. Faccio un all-in, ce la posso fare. Anzi no, non ce la posso fare, perché non ho uno scanner. Vado al negozio di computer e stampanti per verificare i prezzi. Vedo, con desiderio, una bella stampante. Vedo lo scanner e leggo un cartello che mi fa sorridere. Satisfaction guaranteed or your money back. Praticamente, soddisfatti o rimborsati. Dunque, ecco il piano. Compro lo scanner, lo porto a casa e faccio le scansioni. Poi lo riporto e dico che non mi andava bene. Mi faccio restituire i soldi e mi compro la stampante. Detto fatto. Eccomi qua, ora, a casa con lo scanner. Lo sfilo dalla scatola delicatamente, lo installo e comincio con le scansioni dei disegni. Tutto fatto. Non posso fare una prova di stampa perché non ho la stampante. Rimetto tutto a posto, esattamente com'era. Non possono farmi storie. Torno al negozio. Con una scusa dico che non va bene, che è troppo rumoroso. Mi chiedono se ne voglio vedere un altro e dico di no. Dico che forse avrei preferito una stampante, e indico la stampante A3 che avevo notato poco prima. Mi guardano un po' stupiti, ma fanno il cambio tranquillamente. Io pago la differenza e vado. Stampo ed è fatta. Stampo il primo foglio, lo guardo e mi vengono i brividi. Avevo sbagliato tutto. Mi rendo conto di avere impostato male lo scanner e di avere scansionato tutti i miei disegni in bassa risoluzione. Uscivano delle stampe piccole come francobolli su una pagina A3. Rimetto tutto a posto, torno al negozio. È tardi e il negozio sta per chiudere. Mi rimaneva l'ultima carta da giocare, la più rischiosa. Dire la verità. Entro nel negozio come se dovessi fare una rapina. Aspetto che l'ultimo cliente esca per poter rimanere sola con il commesso e fare la mia confessione. Era la terza volta che mi presentavo in negozio quel giorno. Lui mi guarda con aria infastidita. Mi chiede se neanche la stampante, per caso, andasse bene. Allora, il commesso mi ricorda un ragazzo molto giovane che continuava a guardarmi come per dire, insomma, cosa vuoi, scegli e compra. E invece io lì che vagavo, confrontavo i prezzi, prendevo nota, facevo i miei calcoli, poi temporeggiavo. Insomma, la terza volta che mi vede il negozio, insomma, incomincia a farsi delle domande, a capire che c'era qualcosa sotto che stava, insomma, per succedere, sì. Andava bene lo scanner e va bene la stampante, gli dico. Il problema è che io non ho soldi per comprarle tutte e due e domani ho un colloquio di lavoro. Gli spiego l'errore che ho fatto con lo scanner e gli dico: se mi presti lo scanner per stanotte, ti prometto che domani alle 9 te lo riporto esattamente come me lo dai. Mi dovresti anche regalare un pacco di carta però, perché nel fare le prove di stampa ho sprecato diversi fogli. Lui mi guarda incredulo, sorride. Dovevo avere una faccia veramente disperata. Va bene, mi dice, ma alle 9 in punto e non dirlo al mio manager. Anzi, non dirlo a nessuno. Il giorno dopo, al colloquio, il portfolio non l'hanno praticamente guardato, però era bellissimo. Quell'incontro, invece, era solo per dirmi che non stavano assumendo nessuno. Poco dopo ho trovato un lavoro e sono diventata bravissima a fare le scansioni. La puntata di oggi, questa seconda puntata della seconda stagione di Linea d'Ombra, si intitola Produrre la documentazione. Ora, io non saprei esattamente nella storia di Carolina dove sta la Linea d'Ombra, forse ce n'è più di una. È la Linea d'Ombra tra l'essere uno studente e diventare un professionista, tra il dire la verità e dire delle bugie, ma anche la Linea d'Ombra tra quello che pensi che gli altri vogliono e quello che in realtà poi gli altri desiderano veramente. In questo caso, vogliono il portfolio? No, non gli interessava veramente. Pronto, ciao Carolina, buongiorno. Ciao Matteo. Senti, quanti anni sono passati da allora, Carolina? Ma tantissimi anni, questa è una serie del 2003, quindi insomma 17 anni. Diciamo una mezza generazione. Come la vivi adesso risentendola e ricordandola? Adesso che fai questo mestiere e hai anche dei riconoscimenti importanti, nel senso che sei un art director, sei un'illustratrice, lavori tanto con l'America, dico bene? Sì, è vero. Questa storia, guarda, nel ricordarla ho avuto un po' di nostalgia di questo momento di leggerezza, questa diciamo il non avere nulla ma avere gli strumenti e un sacco di possibilità davanti, e quindi anche questa voglia di trovarci, di scoprire, di cercare di far succedere qualcosa, quindi cercare il successo e provarci. E quindi avere, diciamo, uno spazio vuoto davanti. Sì, sì, sì, poi Londra ovviamente è una città piena di possibilità, quindi per me era qualcosa doveva succedere lì, qualcosa c'era, ci doveva essere uno spazio anche per me in quella città. E alla fine c'è stato, Carolina, oppure l'hai trovato altrove? No, sono rimasta tanto tempo all'estero, principalmente a Londra, qualche episodio lavorativo a Dubai. In realtà io non dovevo cercare un lavoro, stavo sbagliando, dovevo cercare un agente. Quindi una volta che ho trovato un agente ho trovato molti molti altri lavori. Quello dell'illustratore è un mestiere quasi invisibile, nel senso che moltissime persone che leggono riviste, vedono video o film in cui l'illustrazione è anche il 90%, spesso non si fanno la domanda su chi l'ha creata quella cosa lì e come l'ha creata. L'illustratore è un mestiere molto antico e che tra l'altro ha, correggimi se sbaglio, ma in Italia dei rappresentanti molto importanti. Sì, sì, assolutamente, anche se io ho lavorato pochissimo in Italia. È un lavoro, sì, molto presente. Io veramente mi facevo la domanda, come si fa a trovare un lavoro? Come fa un illustratore a trovare un lavoro? Quindi mi sono rivolta inizialmente alle riviste, alle agenzie pubblicitarie. Mm-hmm. Dopo aver seminato così tanto, alla fine, diciamo che mi ricordo una casa di produzione mi aveva contattato, mi aveva offerto un lavoro non come illustratrice, ma come regista di spot di animazione, e quindi quello è stato il lavoro che ho fatto per tanti anni. E poi sei tornata a disegnare, a fare disegno puro, fare illustrazione pura? Poi sono tornata a fare un disegno puro quando, diciamo, sono diventata mamma, è un lavoro un pochino più semplice, quindi adesso disegno principalmente copertine di libri per teenager innamorate. o che tu cerchi di fare innamorare attraverso le tue copertine. Esatto, che devo fare innamorare ancora di più, quindi è molto divertente fare questo lavoro da Cagliari. Infatti, perché tu poi hai scelto di tornare a casa, direi, dal tuo accento, no? Sì. A Cagliari immagino, la conosco e la frequento un po', troppo poco, si vive benissimo. Come si riesce a vivere facendo quel mestiere a Cagliari? Benissimo, perché io negli ultimi anni a Londra praticamente non vedevo pochissimi miei clienti, quindi lavoravo quasi in remoto dalla stessa città, quindi sembrava un pochino surreale questa dimensione, che vivo in una grande città ma praticamente non vedere mai i tuoi colleghi, i tuoi clienti, le agenzie. Quindi ho deciso di tornare qua. Poi io non sono fatta per le grandi città, mi piace il mare, mi piace il sole, mi piace questa dimensione un po' di quartiere, quindi per me Cagliari è sicuramente la città ideale. Però leggevo che hai fatto di recente un lavoro per New York, per il governatore di New York Andrew Cuomo, una campagna pro lockdown, giusto? Sì. Che tipo di, come si trova un lavoro come quello? Tramite la gente, giusto? Tramite il manager? Sì, ovviamente la gente a New York mi ha aiutato tanto, poi avevo già preparato questo video e al momento buono, quando cercavano del materiale per la campagna, io ho mandato il video, l'ho fatto arrivare, è piaciuto, l'hanno pubblicato subito e quindi è andata così. Sembra facilissimo. Caro, <no. ride> senti, tu ci hai mandato anche, oltre alla storia, un piccolo testo di accompagnamento in cui dici: ho voluto raccontare questa storia perché sarà un momento molto difficile per i giovani che cercano lavoro, ma non bisogna mai scoraggiarsi. Tu di fatto non l'hai fatto, nel senso, quando questi ti hanno convocato e tu hai fatto tutto sto casino e il portfolio non te l'hanno nemmeno guardato e ti hanno detto no, ma l'abbiamo chiamata per dire che non assumiamo nessuno. Come sei tornata a casa e dopo quanto ti sei ripresa e hai cominciato a lavorare? Sì, esattamente, ho voluto raccontare questa storia perché spesso si pensa che insomma bisogna avere qualcosa per poter iniziare, bisogna avere, non so, un capitale, una investire nel posto giusto, un momento giusto. Invece secondo me a volte basta anche un po' ingegnarsi, un po' più di determinazione. Poi ho parlato di giovani, però non solo giovani, ovviamente, anche io potrei ritrovarmi adesso nella situazione di dover inventare qualcosa di nuovo. Ci sei più tornata in quel negozio? Hai mai più incontrato quel commesso? Io sono tornata, certo, sono tornata un sacco di volte, anzi mi ricordo che a un certo punto lui mi aveva ricordato di questa cosa, mi aveva regalato, mi aveva prestato e mi ha detto: mi devi un muffin, e io gli ho fatto un muffin, un cioccolato. Senti Carolina, se qualcuno volesse vedere i tuoi disegni, le tue illustrazioni, dove lo mandiamo? Su Instagram, su online, dove? Ma su Instagram, certo, oppure c'è un sito che è carolinamelis.com. Però ok, che è il nome e cognome, carolinamelis.com, così sì. Se avete voglia di dare un occhio trovate le cose che io ho già guardato, devo dire la verità, e sono molto belle. Carolina, ti ringrazio molto per la storia, per la chiacchierata e anche per, diciamo, lo sprone a tutti quelli che hanno bisogno di cominciare o ricominciare qualcosa. In bocca al lupo per tutto. Grazie a te. A presto. In questa puntata, che si intitola appunto Produrre la documentazione, la prossima storia è quella di una falsaria. Una falsaria che più che letteralmente produceva documenti come lettere, appunti, pagine di diario di personaggi noti che poi rivendeva per pagarsi le bollette. È la storia di una scrittrice sul lastrico, si chiamava Lee Israel, che a modo suo produceva delle piccole opere d'arte sulla linea d'ombra tra il lecito e l'illecito. state con noi. Nel 1993 l'autrice newyorkese Lee Israel si trovò a dover scontare diversi anni di pena detentiva. In seguito a un'indagine dell'FBI era stata arrestata come falsaria letteraria. Nei due anni precedenti la 53enne biografa e giornalista aveva fatto diversi soldi, non esattamente una fortuna, ma abbastanza per pagare gli arretrati dell'affitto e far curare dal veterinario il suo amato gatto molto malato. Li aveva fatti, vi dicevo, inventandosi di sana pianta lettere di persone importanti della metà del XX secolo. In una serie di astutissime contraffazioni di Remington o di Adler d'epoca, proveniente, a sua detta, da negozi di cianfrusaglie locali, Lee aveva dato forma con la sua penna e con la loro grafia a strane lettere o a pagine di appunti di artisti del calibro di Noel Coward o l'attore Fanny Bryce e poi la sua preferita, la poetessa Dorothy Parker. Queste pagine sono state poi vendute in cambio di denaro dalla scrittrice in quelle splendide librerie indipendenti di Manhattan che hanno fatto la storia della città e dei mercanteggiamenti letterari. La firma sembrava originale, quindi nessuno si preoccupava di fare delle domande sulla loro provenienza. Alla fine Lee Israel non è finita in carcere. È stata punita con 6 mesi di arresti domiciliari e 5 anni di libertà vigilata. E non è mai nemmeno stata considerata una delle grandi falsarie della storia letteraria. Nessuno l'ha mai menzionata, cosa che per qualsiasi scrittore sarebbe irritante, ma per una persona con l'ego di Lee Israel era semplicemente insopportabile. Era giustamente orgogliosa del suo lavoro, del modo in cui si era immersa nella vita e nella scrittura dei suoi soggetti per assorbire le loro voci prima di restituirle al mondo. Alla fine aveva generato 400 lettere false in un solo anno e mezzo. Quasi per caso mi sono praticamente ritrovata nei panni di una criminale. E di quale crimine potresti mai essere accusata, a parte quello di oltraggio alla moda? Sto abbellendo scambi epistolari di scrittori famosi. Adoro il suo stile, è così caustico. Veramente notevole, mi dica il prezzo. Ora che si fa? Giochiamo? Spendiamo? Beviamo? Signorina Israel, avrei delle domande sull'ultima lettera che ho acquistato. Il mio successo come falsaria era in qualche modo in sintonia con il mio successo che un tempo aveva avuto come scrittrice di biografie, racconta Lee Israel. Avevo creato per decenni una sorta di identità fusa con i miei soggetti. Dire che ho incanalato è solo una leggera esagerazione. Era molto attenta ad aggiungere quel tanto che bastava per rendere i suoi documenti intriganti, senza però renderli così improbabili da far alzare le antenne di chi le comprava. Nelle lettere di Israel, ad esempio, Ernest Hemingway brontolava per il fatto che Spencer Tracy fosse stata scritturata nel Vecchio e il Mare, anche se nulla di tutto questo ovviamente era vero. Israel non si è mai pentita di questi furti letterari. Le lettere contraffatte, dice, erano giochi pindarici, erano divertenti ed erano molto intelligenti. Prima dell'inizio degli anni 90, il commercio di cimeli letterari era un'industria poco sviluppata, alimentata da una buona dose di avidità e di malafede. Una parte dei venditori sospettavano che Lee Israel creasse dei falsi, ma erano ben felici di darle $50 in contanti, prima poi di rivenderli per 3 volte tanto quella cifra a qualsiasi cliente di passaggio. Insomma, nessuno si faceva male e per di più Lee Israel sentiva di essere pagata per le sue capacità professionali in un modo che l'aveva ormai precluso nel mondo letterario. Lee Israel era stata l'autrice di 3 biografie, 2 delle quali sono state acclamate dalla critica. Una di quelle 2 è entrata nella lista dei bestseller del New York Times, solo che il suo modo di lavorare stava passando di moda. Anni e anni di pazienti indagini negli archivi, seguiti dalla realizzazione di una narrazione meticolosa in cui il soggetto della biografia ha sempre avuto la precedenza sul capriccio e sull'ego dell'autrice, stava diventando fuori moda. Né tantomeno, in questo mercato appena modificato, Israel aveva avuto l'abilità o il desiderio di trasformarsi in un autore di marca, chiamiamolo così. Non era solo pessima nell'autopromozione, ma era anche scorbutica nella vita, riuscendo a offendere praticamente tutti, compreso il suo stesso agente. fatto che il suo appartamento di New York fosse in uno stato di totale caos, con gli escrementi di gatto che si accumulavano sotto il letto, suggerisce che il suo salto nella criminalità a metà della sua vita era stato un drammatico declino morale, più che un sintomo di decadimento della salute mentale. L'incapacità di Lee Israel di vendere un nuovo libro al suo agente, che le aveva suggerito di trovare un altro modo per guadagnarsi da vivere, la sua solitudine corazzata e il suo alcolismo la stavano trasformando da eccentrica gattara in una seccatura sociale per chiunque le stesse vicino. Io penso che tu debba subito cercare un altro modo per sbarcare il lunario. Ho trovato questa deliziosa lettera firmata. Fanny Bryce, tra le mie preferite. Le vanno bene i $75? Oh, se avesse più contenuto la pagherei meglio. Sì, decisamente questa vale di più. Il post scriptum la rende inestimabile. Aveva anche iniziato a telefonare alle principali case editrici, fingendo di essere Nora Ephron, la sceneggiatrice di Harry di Presento Sally. Gli avvocati della Ephron avevano dovuto inviare una lettera che le ordinava di smetterla. In un'altra occasione, umiliata da un libraio che si rifiutava di comprare i libri di seconda mano che lei si era portata dietro per tutta la città, si inventò una deliziosa vendetta. Avendo accertato che lui aveva un costoso cagnolino che adorava, lei aveva chiamato il negozio da una cabina telefonica fingendo di essere uno dei suoi vicini e urlando che il loro palazzo era in fiamme e che il suo amato animale domestico stava per essere abbrustolito. Lee Israel non è un personaggio simpatico. Nel suo libro di memorie si presenta come una persona spiacevole, ma è anche abbastanza coraggiosa da rivelare le sue vulnerabilità. In fondo bisogna ammirare una donna che è pronta a raccontare che il disinfestatore si era rifiutato di entrare nel suo appartamento finché lei non avesse fatto pulizia. L'argomentazione di Lee era che, dato che i suoi falsi erano abbastanza buoni per ingannare così tante persone, dov'era esattamente il danno che lei provocava? I librai in difficoltà guadagnavano bene e i compratori provavano l'ebbrezza di un incontro esclusivo e intimo con il loro scrittore preferito. Lei era convinta di offrire qualcosa di meglio dell'originale. Lee Israel è morta nel 2014. Ho scambiato molte email con lei mentre scrivevo la mia sceneggiatura, ricorda la sceneggiatrice del film che si intitola Copia originale che racconta la sua storia. Pensavo che sarebbe stata una stronza e invece non l'è stata per niente, racconta. In realtà era una signora anziana, fragile. Abbiamo bevuto un cocktail e la cena è durata un'ora, continua a raccontare. Lee Israel era malata e alla fine prese un taxi per tornare a casa sua. Naturalmente era lusingata dal fatto che si stesse facendo un film sulla sua vita e sulla sua storia, ma non era neanche lontanamente sorpresa. Anzi, sentiva che in qualche modo questa cosa le spettava. Good night, lady. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Questa storia l'abbiamo letta sul Guardian in un articolo che si intitolava Fakes and Fortunes, cioè falsi e fortune. Ma vi ricordo che se avete voglia di sapere qualcosa di più della storia di Lee Israel potete cercare questo film che si intitola Copia originale, di cui avete sentito alcuni spezzoni durante il racconto, che racconta esattamente la storia di Lee Israel e lo fa veramente molto molto bene, in maniera in parte struggente e in parte in maniera anche molto sardonica, molto divertente. Questa seconda puntata si chiude con la nuova storia seriale che abbiamo cominciato a raccontarvi ieri. È una storia che arriva dagli archivi dell'archivio di Aristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. È una storia che ha avuto un certo riscontro, anche perché 3 anni fa ha vinto il premio Pieve, è quindi pubblicata in un libro che si intitola La ridotta Isabel. Ma come sempre facciamo, come sempre fa Mauro Pescio, che è autore di queste storie seriali, scava nel fondo di queste storie, quindi parte da lì e va oltre, fa ricerche, fa telefonate, incontra le persone. I protagonisti di questa storia quindi sono tutti i familiari di questo giovanissimo ragazzo che negli anni 50 prende una decisione probabilmente affrettata, che però diventa davvero una sorta di valanga che travolge tutto. Lui si chiama Antonio Cocco,

Ed eccola qui, è la storia di Tony, di Antonio Cocco, quella che vi stiamo raccontando, la storia di un ragazzo che negli anni 50, nel 52, decide di scappare dall'Italia, di andare in Francia, ma in Francia è un clandestino all'epoca e quindi ha due possibilità: o tornare in Italia a fare del carcere, oppure, come gli dicono in maniera probabilmente non chiarissima, poi l'Italia farà ricorso e cercherà di capire che cosa esattamente faceva la legione straniera in merito, perché è successo a più di un giovane che gli si dicesse: o torni a casa e fai il carcere, oppure ti arruoli nella legione straniera. E questa è la scelta che fa Tony, e queste sono le lettere che da quel giorno lui comincia a scrivere a casa. Ve la racconteremo passo dopo passo questa storia, grazie a Mauro Pescio che la raccoglie, grazie a Giovanni Cocco che interviene, sentite direttamente la sua voce, poi grazie a Danita Panizza, grazie a Paolo Corleoni, grazie a Luca Micheli che fanno questo programma. Voi continuate a mandarci le vostre storie, lineedombra@radio24.it, noi le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. La linea al GR, torniamo domani puntualissimi a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!